Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Allora dovete essere anche un po', un pochino rompiscatole anche con i vostri insegnanti e fare un sacco di domande. Essere sempre un sacco curiosi per imparare le cose nuove. Insomma, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, potremmo definirla un sacco bella questa dichiarazione della ministra Boschi per il primo giorno di scuola per la gran parte degli studenti italiani. Siate un po' più rompiscatole con i vostri insegnanti, ha detto, ed è probabile che scolari e studenti non se lo facciano ripetere due volte. Naturalmente la ministra lo diceva in senso buono. Primo giorno di scuola, questo è primo giorno anche per la nuova stagione di Effetto Notte, e con appuntamento quotidiano, questo imperdibile, sempre alle 21 ogni giorno, per avere un quadro esauriente della giornata che a quest'ora si sta chiudendo. Da quando ci siamo lasciati, più o meno da luglio, come in una telenovela in stile Beautiful, non è che ci siano state proprio delle puntate della politica, dell'economia essenziali, insomma imperdibili, magari sono cambiate nel frattempo le nostre vite, magari anche tanto, ma per quanto riguarda la politica ci sono più o meno, avete notato, sempre le stesse dinamiche, no? C'è l'attivismo di Renzi, il suo decisionismo, annunci di prossimi interventi e riforme, il patto del Nazareno che regge a giorni alterni, poi le accuse reciproche, poi la crisi che è sempre il concetto dominante, oltre ormai all'imperitura diatriba tra rigore e flessibilità. Ormai mi sono venute a noia queste diatribe, però questo è, ma prima bisogna fare le riforme, eccetera, eccetera. Non è cambiato moltissimo il quadro, anche a livello internazionale. Poi piano piano ci andiamo. Ma insomma, adesso riprendiamo e cominciamo a capire perlomeno com'è andata la giornata di oggi. Economia italiana, l'OCSE boccia il nostro paese, il PIL, il prodotto interno lordo, è in calo dello 0,4% e per l'agenzia Standard & Poor's nel 2014 la crescita è pari a zero. Consulta, il Parlamento torna a votare, ma è fumata nera per i giudici eletti invece i membri laici del CSM. Iraq, dalla conferenza di Parigi via libera anche a un'offensiva militare contro l'ISIS, l'Italia però non invierà velivoli militari. Immigrazione, denuncia dell'agenzia dell'ONU per i rifugiati, 3 naufragi in Libia da sabato, oltre 600 morti, e continua quindi l'ecatombe. Poi la notizia di cronaca di un costruttore che ha ucciso ad Ascoli 2 operai, dacci lo stipendio, sembra che loro lo abbiano minacciato e lui ha sparato. Per quanto riguarda il caso Iara, Bossetti resta in carcere perché è stata respinta la richiesta di scarcerazione. E poi nozze gay a Bologna, si registrano queste nozze in comune ma scoppia la polemica, lo scontro tra prefetto e sindaco. Partiamo quindi dalla perdurante crisi con i dati OCSE davvero pesanti. Delude tutta l'eurozona, ma è l'Italia che si trova nelle condizioni più difficili. Doppia doccia gelata per l'Italia, la prima arriva dall'OCSE secondo cui il nostro paese chiuderà anche il 2014 in recessione con il PIL in contrazione dello 0,4%, stagnazione prevista poi nel 2015 quando il nostro prodotto interno lordo crescerà solo dello 0,1%. Stime al ribasso quest'anno per tutti i paesi del G7, ma quelle a carico dell'Italia sono in assoluto le più pesanti, tanto da relegarci all'ultimo posto in classifica. Crescita invece quest'anno dell'1,5% per la Germania, dello 0,4% per la Francia, del 3,1% per la Gran Bretagna, la cui economia, secondo l'OCSE, sarà l'unica a crescere nel 2015 più del previsto. A vedere nero è anche Standard & Poor's, che taglia le stime di crescita dell'eurozona, portando a zero quella sul PIL italiano nel 2014 contro il più 0,5% previsto a giugno. In precedenza, spiega l'agenzia di rating, abbiamo sovrastimato le misure di stimolo annunciate da Matteo Renzi. No comment da parte del Premier, riferirò domani in Parlamento, ha fatto sapere Renzi, che oggi ha incassato il sostegno del presidente dei Confindustria. Ci aspettavamo questi dati, ha detto Squinzi da Crotone, ma questo governo dà l'impressione di voler portare avanti le riforme e in questa direzione avrà il nostro supporto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E domani Renzi alle Camere parlerà anche del programma dei 1000 giorni. Intanto i partiti oggi sono stati alle prese con le grandi manovre per i nuovi membri della consulta del CSM. In realtà per la consulta c'è stata una fumata nera, mentre sono stati eletti membri laici del CSM. Sentiamo. Il ticket del Nazareno non ce la fa, almeno per il momento, ma PD e Forza Italia insistono con i due candidati per la Consulta, Luciano Violante e Donato Bruno, che prendono rispettivamente 530 e 529 voti. Il patto tiene, domani alle 18 si procederà a Montecitorio con una nuova votazione di deputati e senatori. D'accordo i capigruppo PD e Forza Italia, Roberto Speranza e Renato Brunetta. Il quorum richiesto è di 3/5 dell'assemblea, pari a 570 voti. L'altra votazione, quella per il CSM, viene però contestata dal Movimento 5 Stelle, che diserta l'aula. I candidati sono per Forza Italia Elisabetta Casellati e Luigi Vitali, quest'ultimo ex sottosegretario alla giustizia del governo Berlusconi, indagato a Napoli e per questo contestato dai pentastellati, che insistono sui loro candidati e per la Corte Costituzionale dicono: Violante e Bruno, votateveli voi. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E oggi dicevamo, primo giorno della nuova stagione di Effetto Note, ma soprattutto primo giorno di scuola per gli studenti italiani. Il presidente del Consiglio Renzi l'anno scolastico lo ha aperto in una scuola di Palermo. Sceglie Palermo Matteo Renzi per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il premier interviene alla Don Puglisi nell'anniversario dell'uccisione a brancaccio del sacerdote antimafia. All'esterno qualche contestazione, precari della scuola e professori, i più numerosi. Il presidente del Consiglio si rivolge anche a loro. Ci sono 149.000 persone che hanno l'obbligo di essere assunte, spiega Renzi. Però noi chiediamo di cambiare le regole del gioco e diciamo anche ai docenti e agli insegnanti: guardate, noi siamo disponibili a portarvi dentro, ma voi aiutateci, l'ho detto dentro, a valorizzare il merito. Questo paese non tornerà a crescere se la ragioneria dello Stato indovinerà la finanziaria del 2015, ma se tornerà ad avere rispetto per gli insegnanti, considerandoli centrali, dice ancora Renzi. Quindi il tema della mafia. La mafia è ancora forte, presente, guai a considerare questa battaglia vinta. E non è soltanto al sud, la mafia è anche al nord, è anche nelle drammatiche interconnessioni economiche che ci sono. Visita sempre a Palermo del presidente del Consiglio ad un'azienda premiata come la migliore start d'Italia. Al sud non ci sono solo problemi, dice Renzi, ma anche straordinarie realtà d'impresa. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore. Quindi Renzi a Palermo, i ministri invece hanno scelto le scuole che avevano frequentato da ragazzi. La ministra dell'istruzione Giannini a Roma è tornata a parlare della riforma in discussione. Da oggi parte la consultazione online. Felicissimi di dialogare, perché il nostro metodo è da oggi di aprire un'ampia consultazione che parli sia agli insegnanti precari e non, sia agli studenti, sia alle famiglie, insomma a tutto il paese. Che questo piano assunzionale non risolva la situazione non sono d'accordo assolutamente, perché come sapete il male tutto italiano finora è stato quello di non avere la sicurezza degli insegnanti che ogni anno possono andare nelle classi. Assieme al piano assunzionale c'è un concorso che parte subito, e questo lo sanno tutti coloro che sono interessati a fare l'insegnante. E la ministra Giannini, che avete appena sentito, ha anche annunciato una novità per quanto riguarda la maturità 2015-2016, si tornerà ai commissari interni e quindi non ci saranno più le costosissime convocazioni di commissari dall'esterno. A proposito di politica, c'è tra l'altro la decisione di Renzi, la proposta per il momento è quella di far lavorare per una settimana non più corta e parlamentare, una settimana regolare, 5 giorni su 7. Cominciano ad esserci vari scontri. Se volete potete cominciare da oggi a scaldarvi col numero 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi, per dire che cosa ne pensate, perché per ora in media i parlamentari lavorano su 3 giorni, quindi non lavorano il lunedì, non lavorano il venerdì, poi neanche il sabato e la domenica. Renzi ha proposto questo, di lavorare 5 giorni su 7. Se avete la vostra da dire, 349-238-6666, e poi vi ricordo anche che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Però ritornando al primo giorno di scuola, proprio in questo primo giorno si è verificato a Bergamo un fatto gravissimo. È successo dopo il suono della campanella al primo giorno di scuola. Questa mattina intorno alle 8 un ragazzo di 17 anni, dopo essere entrato in classe, ne sarebbe uscito per salire al quinto piano e da lì si sarebbe gettato nel vuoto. Questo secondo le prime ricostruzioni. Ad accorgersi della sua assenza sono stati i compagni di classe del liceo scientifico Lussana di Bergamo. Ora sono molto gravi le condizioni del giovane studente, che è ricoverato in rianimazione all'ospedale Papa Giovanni XXIII. È stato il vicepreside del liceo, Stefano Dominoni, a trovare il ragazzo in cortile. Al momento sono in corso le verifiche per accertare come il fatto si sia potuto verificare all'interno dell'istituto. Marcella Vezzoli, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso spostiamoci invece sulle notizie dall'estero con la lotta all'ISIS in Iraq. Oggi si è tenuta a Parigi la conferenza internazionale. Un impegno comune a sostenere la guerra in Iraq contro l'ISIS con tutti i mezzi necessari. La conferenza di Parigi si chiude con l'appoggio di 30 paesi nella lotta intrapresa dagli Stati Uniti contro il califfato islamico, con la Francia che si avvia a divenire il primo partner operativo a fianco di Washington. Le soutien politique pour lutter contre une menace majeure. La minaccia posta dall'ISIS richiede una risposta globale, ha avvertito il presidente francese Hollande aprendo i lavori dopo aver inviato i propri jet nei cieli siriani per una prima missione di ricognizione. Occorre agire rapidamente, gli ha fatto eco l'omologo iracheno Fuad Masum. La conferenza di Parigi non ha fornito dettagli precisi su come questa coalizione, che includerà anche una decina di stati arabi, si organizzerà militarmente contro l'ISIS, né ha chiarito se si combatterà il califfato anche in Siria, dove i terroristi hanno conquistato ampie fette di territorio dalle quali hanno lanciato successivamente l'attacco all'Iraq. Per il momento gli Stati Uniti hanno raggiunto parte dell'obiettivo mobilitando una coalizione internazionale che includa anche i paesi arabi. La prossima tappa sarà ottenere il via libera a livello dell'Assemblea Generale dell'ONU. Il ministro degli esteri uscente Mogherini ha escluso l'impiego di nostri caccia nei cieli iracheni e ha così commentato l'esito della conferenza. Tutti d'accordo sull'obiettivo da perseguire, che è il fermare un'organizzazione terroristica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto si apprende che stanno bene le due ragazze italiane, vi ricordate Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, rapite in Siria il 31 luglio scorso. Questo in realtà l'ha detto un ufficiale dell'esercito libero siriano nei pressi di Aleppo, dove le due volontarie sarebbero state sequestrate da un comando armato, escludendo che siano in mano allo Stato islamico. C'è uno stallo nelle trattative, dice, in corso per la loro liberazione. E poi torniamo invece sul tema gravissimo dell'immigrazione. I dati sulle vittime sono impressionanti. Ve lo dicevo dai titoli, si parla di oltre 600 morti negli ultimi tre giorni, però di questo parleremo poi direttamente nel corso di Effetto Notte con la portavoce dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati. Invece adesso stiamo sulla cronaca con due morti nelle Marche. Hanno perso la vita due uomini, entrambi di origine slava, nella sparatoria avvenuta in contrada Montepacini a Fermo. A sparare ai due operai di 38 e 26 anni, il loro ex datore di lavoro, l'imprenditore edile Gianluca Ciferri. Alla base una questione economica di lavori non pagati. Secondo il racconto che Ciferri ha fatto ai carabinieri, i due uomini lo hanno raggiunto a casa, una villetta isolata dove abita con la moglie e i tre figli, e minacciato con una piccozza. Avrebbero chiesto all'imprenditore il loro stipendio. Tra i tre è scoppiata una violenta lite, al culmine della quale il padrone di casa avrebbe preso la pistola, regolarmente detenuta, così come altre armi da fuoco sequestrate dagli investigatori, e sparato ad altezza d'uomo. Uno dei due operai è morto sul colpo. Il secondo è stato trovato dai soccorritori agonizzante in un campo di girasoli, dove era fuggito per mettersi in salvo. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo. Questa tragedia è conseguenza della situazione di disperazione in cui versa da anni l'intero settore edile delle Marche, ha commentato Massimo Giacchetti, segretario regionale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini CISL delle Marche. Federico Fumagalli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso invece stiamo su un'altra notizia, in realtà la relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze 2014, secondo quale tra i giovani quasi un ragazzo su quattro fuma Spinelli in Italia, il consumo è in aumento, continua intanto a calare invece l'uso di cocaina, stabili, eroina, stimolanti e allucinogeni. Però adesso usciamo da questo tema e andiamo su uno un po' più leggero, più piacevole, il calcio con Giovanni Capuano. Giovanni, c'è un posticipo questa sera, che cosa si posticipa in Serie A? Siamo nel pieno di una maratona, la prima di questa stagione. Sì, si posticipa l'ultima partita della seconda giornata della Serie A ed è Verona-Palermo. Ti do anche l'aggiornamento. Sì. Siamo intorno alla mezz'ora del primo tempo ed è in vantaggio fuori casa il Palermo per 1-0. Ha segnato Vasquez al 17esimo. Gran parte del merito va a Dybala, colpo di tacco, miracolo di Rafael e poi tap-in di Vasquez per l'1-0. Questa, ti dicevo, è l'ultima partita di questa seconda giornata, ma è in realtà una vera e propria maratona perché si è giocato sabato, domenica, oggi. Poi da domani parte la Champions, che ci terrà impegnati anche mercoledì. Poi giovedì c'è c'è l'Europa League, poi una piccola pausa, poi sabato c'è addirittura Milan-Juventus, che è già un big match tra due delle tre capoliste di questo campionato, e insomma, fatta l'ultima sosta per la nazionale, siamo già entrati nel pieno di questa stagione. E avremo modo di sentirci allora in questi giorni. Giovanni, a parte che ci sentiamo poi anche in chiusura per capire a che punto stanno, va bene? Va bene. Ciao Giovanni. Intanto vedo molti vostri messaggi al 349-238-6666 di Bentornato a me, a Effetto Notte, anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Potete continuare a scrivere questo tanto per ritrovarci, o anche potete dire la vostra su questa proposta di Renzi di aumentare le ore di lavoro dei parlamentari, che adesso lavorano, diciamo, la settimana corta, no? Non lavorano il lunedì, il venerdì e neanche il sabato e la domenica, lavorano tre giorni, vorrebbe aumentare i giorni, le ore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi sino alle 22, ve lo ricordo, riparte Effetto Notte tutte le sere dalle 21 alle 22. Adesso, dopo questi aggiornamenti, io vi ricordo brevemente quali sono state le notizie più importanti della giornata e poi cominceremo con gli ospiti a approfondire alcuni argomenti in particolare, ma ripartiamo col riassunto dei titoli. Economia, l'Italia non cresce più, tutta Eurolandia in realtà è in affanno secondo i dati dell'Ocse, però quella che se la passa peggio è l'Italia. Consulta, il Parlamento è tornato a votare ma è fumata nera per i giudici della Corte Costituzionale, eletti invece i membri laici del CSM. Per quanto riguarda l'Iraq, oggi è stata la conferenza internazionale a Parigi, via libera anche un'offensiva militare contro l'ISIS. Immigrazione, strage infinita di migranti, si parla di tra i 600 e 800 morti o dispersi in 5 giorni. E poi il caso Yara, Bossetti resta in carcere, è stata respinta la richiesta di scarcerazione fatta dai legali, e questa notizia che riguarda Bologna con le nozze gay che vengono registrate in comune ma si crea lo scontro tra il prefetto e il sindaco. Quindi, insomma, l'avete sentito, ci siamo lasciati con cattive notizie per quanto riguarda l'economia, questa crisi che proprio non demorde, e anzi oggi sono arrivati i dati dell'Ocse, dell'organizzazione parigina, che ha detto che Eurolandia in genere è deludente, quindi anche l'andamento dell'economia in Francia e Germania, ma l'Italia è quella che è davvero nelle condizioni peggiori. Ci sarebbe una contrazione del PIL, cioè del prodotto interno lordo, dello 0,4%, e l'Italia è l'unico paese del G7 a segnare un andamento negativo. Quindi un rapporto diffuso e molto amaro per il nostro paese. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, ben ritrovato Alberto. Ciao. Buonasera a tutti. Insomma, ci siamo lasciati con cattive notizie e ci ritroviamo forse con peggio? Da questo punto di vista. Ahimè, le vacanze non è che sono riuscite tanto a rilanciare il PIL, diciamo la verità. Quindi adesso i nodi arrivano al pettine. Insomma, già la BCE aveva fatto capire che le previsioni per la fine dell'anno sono peggiorate, l'Ocse ha rivisto pesantemente il suo outlook, cioè la previsione semestrale. Non dimentichiamo che a maggio prevedeva per l'Italia una crescita di mezzo punto, più 0,5. Senti, invece, Alberto, ma non è che, sai che Renzi da tempo ripete, ci sono i gufi, quelli che vogliono portarci del male, vedere sempre le cose in negativo, si è riservato da Palermo oggi di rispondere su queste tematiche domani, quando illustrerà anche il programma dei mille giorni. Non è che anche l'Ocse fa parte della famiglia dei volatili, dei gufi? Ho scoperto che il gufo reale, il nome scientifico è Bubo Bubo, non è Bubo, ecco. Bubo anche l'Ocse. No, pensavo Oxes Oxes magari, ma non è così, temo proprio di no. Qui sono tutte le previsioni che stanno convergendo, ahimè, verso una crescita piatta o negativa per la fine dell'anno, perché purtroppo non si muove nulla, i consumi sono congelati, siamo in deflazione, oramai ci sono 15 città, è ben più di un terzo del listino monitorato dall'Istat che è in deflazione. Alberto, sai che noi non diamo per scontato nulla, certo. Ma in particolare non piace dare, lo ripetiamo ancora una volta in modo chiaro a chi non sapesse ancora effettivamente in modo chiaro cos'è la deflazione, perché tutti vedono in negativo l'inflazione, no? È sempre stata vista, sì, un po' come uno spauracchio, sì, però la deflazione, sì, dovrebbe essere l'abbassamento dei prezzi. Uno dice, ma come mai non, esatto, è positiva? Apparentemente è una bella notizia, perché è quando il costo della vita, il costo dei prezzi è negativo, cioè c'è una diminuzione del costo dei prezzi. In realtà è un dato più psicologico che economico, perché vuol dire che la gente non consuma perché si aspetta che comunque il futuro sarà ancora più nero, vale a dire che i prezzi si abbatteranno ancora di più, ma questo naturalmente impedisce poi a chi produce di produrre e a chi produce poi di creare occupazione, per quella via non c'è la creazione di reddito con la quale si dovrebbe consumare, quindi si crea una specie di grande gorgo, di spirale negativa dalla quale è molto difficile scappare via, senza contare che la deflazione, cioè l'andamento dell'inflazione negativa, aumenta moltissimo lo spread rispetto per esempio ai tassi sui mutui e rende quindi molto sconveniente anche il pagamento di tassi di mutui bassi, perché comunque si aumenta il divario tra ciò che viene effettivamente percepito in termini di retribuzioni e di costo della vita e quello che poi invece importa come restituzione degli interessi sui debiti, e quindi questo è un bruttissimo dato sia privato che pubblico, perché naturalmente aumenta anche l'onere sul debito pubblico per il governo italiano, quindi è un gran brutto dato quello lì, ma comunque non è quello il dato di oggi. Il dato di oggi, commentavamo, è questo dell'OCSE, che pensa che comunque l'Italia chiuderà l'anno con un andamento del prodotto interno lordo negativo dello 0,4%, correggendo in solo pochi mesi la previsione di quasi un punto percentuale, che è moltissimo. Evidentemente l'economia italiana ha fatto proprio è precipitata, diciamo la verità. Alberto, a proposito di verità, sentiamo che cosa aveva detto Renzi a proposito di queste percentuali, di piccoli spostamenti, insomma, in su, in giù, qualche mese fa. Io non sono uno di quelli che guarda le cifre, ho sempre detto le virgole, e che sta a discutere dello 0,1 tutte le volte. Ho letto per 10 giorni scenari inquietanti sul nostro paese, perché abbiamo fatto meno 0,2 nel secondo trimestre. Oggi è arrivato dato che meno 0,2 lo fa anche la Germania, e trovo tutti quelli che dicevano: ah mamma mia, l'Italia è in crisi, mi trovo la Germania in crisi. Io farei a capo volentieri in termini di dimensioni economiche sulla situazione della Germania, che è sicuramente più forte della nostra, però voglio dirvi che non è la percentuale del 0,2, ma è il clima di rassegnazione che talvolta anche nell'opinione pubblica, non intesa come cittadini, cittadini fanno un tifo per l'Italia, quindi fanno un tifo per tutti noi. Cittadini sono persone molto più serie di quelle che noi rappresentiamo. Insomma, Alberto Rioli non era un odio eccezionale, però si è capito che diceva: insomma, cosa dicono qui, per poco farei volentieri a cambio con, diceva che insomma, a metà agosto, questo in realtà, ecco, a metà agosto aveva detto. Sì, però è vero che non va bene ragionare magari sugli 0, purtroppo però stiamo ballando sugli 0, in più o in meno, ma che è come dire sul nulla. Renzi mi sembra uno della serie meglio un giorno da leone che 100 da pecora, però qui il problema è che in realtà sarebbe meglio avere 100 pecorelle del più 0,1 tutti i giorni, a dire che la verità, ruggire, che non tentare di fare più 3% chissà con che cosa, perché non sono neanche momenti in cui si possa crescere di tantissimo. La Germania è quotata per una crescita dell'1,5%, quindi ed è il campione più forte. La Francia è messa peggio di noi quanto ai fondamentali macroeconomici, quindi la stagione dell'Europa non è una stagione vissuta in grande spolvero in questo momento, è tutto il continente che deve ripensare moltissimo i propri asset di sviluppo, la propria stagione degli investimenti, e non a caso il piano di Juncker, il nuovo leader della Commissione Europea, prevede proprio un massiccio piano di investimenti comunitari, interstatali, diciamo così, europei, di circa 300 miliardi. Si tratterebbe di concretizzarli il prima possibile, in modo in più concreto possibile, per rilanciare un po' l'economia di tutti. Alberto, dimmi qual è l'apertura del Sole 24 Ore, visto che ci stai lavorando per domani? È proprio questa, sui dati dell'OCSE, abbinati poi a quest'altra annuncio di Standard & Poor's, che non vede nessun effetto macroeconomico delle misure di stimolo, cioè i famosi 80 euro che non hanno smosso nulla nell'economia italiana, e loro si preparano a rivedere anche probabilmente il nostro rating, anche se speriamo di no. Senti Alberto, per chiudere, comincio a dare spazio alle ascoltatrici e ascoltatori che stanno scrivendo un sacco di messaggi, sono già molto attivi dal primo giorno di Effetto Notte, a proposito della proposta di Renzi, no? Forse per essere più fattivi, più efficaci, per riuscire un po' a rialzare il paese, propone di far lavorare più ore parlamentari, no? Sai che hanno la settimana corta, 3 giorni su 7, invece propone di farli lavorare 5 giorni su 7. Ti leggo velocissimamente alcuni dei tanti messaggi, poi mi dici cosa pensi tu. Giuseppe da Gerenzano scrive: la vergogna sta nel dover discutere se ha senso portare da 3 a 5 giorni la settimana lavorativa dei politici fannulloni strapagati. Tonio dalla provincia di Cremona: l'estensione a 5 giorni lavorativi non risolverebbe il problema dei parlamentari assenteisti. Poi dice invece un altro ascoltatore: poveri parlamentari, lavorano 2 giorni in più alla settimana, almeno aumentiamo il loro stipendio. Poi d'accordissimo, dice un altro ascoltatore, per aumentare i giorni lavorativi al Parlamento, anche perché da queste istituzioni che si deve iniziare con tagli veri alla razionalizzazione. Marco da Roma dice: non lo sapevo che lavorassero 3 giorni alla settimana, c'è un limite all'iniquità. Mentre Sebana scrive: le leggi si fanno nelle commissioni ed è inutile aumentare la già copiosa produzione legislativa. Che dici tu? Beh, no, non sarei così drastico. Aumentare la produttività dei parlamenti è sempre una bella cosa. Probabilmente sì, qualche convegno in meno e qualche ora di seduta di commissione in più per velocizzare un po' i lavori e magari accorpare un po' qualche tema e evadere con più rapidità la grande massa di emendamenti è auspicabile. Credo che Renzi lo abbia fatto in modo tattico, solamente per bilanciare la crociata che lui sta facendo sui magistrati per accorciare le ferie dei magistrati, che sono di 45 giorni, che francamente anche quello mi sembra una cosa un po' anomala come minimo. E dice un altro SMS al 349-238-6666: ricordo che inizio legislatura sia Grasso che Boldrini, quindi due presidenti delle Camere, dissero che il Parlamento sarebbe rimasto aperto dal lunedì al venerdì, e allora rimane così tra le promesse disattese per il momento. Staremo a vedere. Alberto Rioli, so che invece tu devi lavorare duramente, quindi ti lascio alla chiusura del Sole 24 Ore. Grazie. Ciao, buona Alberto. Serata a tutti. Ciao anche a te. Allora, direi che adesso ci prendiamo una piccola pausa. Voi potete continuare a scrivere sia ai messaggi che alla pagina Facebook di Effetto Notte. Fate le vostre riflessioni. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Poco tempo e rieccoci qua di nuovo insieme, ve lo ricordo, fino alle 22 tutte le sere. Ricordatevi di riprendere la buona abitudine da oggi, dalle 21 alle 22, da lunedì a venerdì, non come fanno i parlamentari tre giorni alla settimana. Vedo vari messaggi di chi dice sì, è giusto farli lavorare come propone Renzi, 5 giorni alla settimana e non 3 come adesso, e qualcuno invece dice che è pura demagogia, è puro populismo. Però adesso, prima di affrontare altri temi con gli ospiti, vi ricordo, dopo ogni pausa, se avete acceso in questo momento, se volete risentirle le notizie, quali sono state quelle principali della giornata. Per la consulta, la Corte Costituzionale, fumata nera per i giudici, niente quorum in Parlamento per Violante. Bruno, non c'è stato l'accordo, e il famoso accordo anche del Nazareno tra Forza Italia e PD. E poi, per quanto riguarda la Scozia, c'è l'appello del primo ministro inglese Cameron, che dice: se ve ne andate sarà per sempre. Sapete che c'è il referendum sull'indipendenza. Il caso Iara, Bossetti resta in carcere perché, dice la giudice per le indagini preliminari, ci sono gravi indizi di colpevolezza. Iraq, dalla conferenza di Parigi, via libera anche un'offensiva militare contro l'ISIS, ma l'Italia non invierà velivoli militari. Per l'immigrazione una continua ecatombe, c'è la denuncia dell'ONU per i rifugiati, dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, che dice 3 naufragi in Libia, da sabato oltre 600 morti. E poi questa notizia che riguarda Bologna, dove si stanno trascrivendo nei registri del comune le nozze gay, ma è scoppiato uno scontro tra il prefetto e il sindaco. E adesso un altro grosso tema. E purtroppo tra i temi di questa prima puntata della nuova stagione di Effetto Notte non possiamo non parlare di una continua ecatombe che c'è nel mare Mediterraneo, complice naturalmente anche l'estate, che almeno verso sud ha tenuto come tempo e quindi c'è stato un mare più tranquillo. Purtroppo gli sbarchi sono continuati e c'è stata davvero un'ecatombe. Già il bilancio di quest'anno è pesantissimo, ma in particolare negli ultimi giorni i naufragi davanti alla Libia sarebbero 3. L'ultimo di cui si ha notizia, si ha conoscenza, dovrebbe essere avuto ieri: un barcone con 250 persone a bordo è affondato al largo delle coste libiche. Si teme che ci siano decine di morti. Per ora le persone salvate dovrebbero essere solo 36, ma facciamo un pochino il punto con Carlotta Sami, che saluto, buonasera. Buonasera, grazie. Che è portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ormai sembra, non lo so, si rischia davvero l'assuefazione a questa cosa, a questo fenomeno terribile, Carlotta Sami, perché sembra una cosa che succede di giorno in giorno, e poi forse quando non ci sono ecatombi di questo tipo, cioè con questi numeri succedono lo stesso, ma non se ne parla. Qual è il bilancio per ora? Purtroppo quando avvengono le tragedie, se queste tragedie poi continuano, rischiano di essere considerate quasi normali. La normalità di tutto questo è che queste tragedie stanno non solo continuando, ma aumentando, e stanno avvenendo alle porte dell'Europa. Quindi tutto questo porta in maniera evidente l'Europa al centro di una crisi umanitaria, e non è un caso che l'Europa si trovi al centro di tutto ciò, perché la maggior parte delle persone vittime di questi naufragi sono rifugiati che scappano da guerre che in realtà sono anche relativamente vicine al nostro continente. Parlo della Siria, di Gaza, dell'Iraq, parlo di ciò che sta avvenendo in Ucraina, parlo della Libia. Quindi tutto questo sta spingendo migliaia e migliaia di persone a trovare come unica via di salvezza l'accesso all'Europa. Il problema di tutto questo è che queste persone non hanno al momento un modo valido per arrivare e trovare rifugio in Europa in modo legale e sicuro. Questo è il problema principale. Carlotta Sami, poi ritorniamo sul concetto che lei ha espresso, che è importantissimo, insomma, come se ci fosse un'inevitabilità per loro a scappare, non è che lo fanno per invaderci, no? Come può essere questa l'impressione, non hanno altra scelta. Intanto i morti mi pare che quest'anno siano oltre 2000, mi pare di aver capito, un numero... Un conteggio che noi teniamo ogni giorno, perché noi lavoriamo nel sud Europa, ma ovviamente abbiamo scambi e comunicazioni quotidiane con i nostri colleghi anche del Nord Africa e in tutto il bacino del Mediterraneo. Diciamo, le nostre statistiche, le nostre stime parlano purtroppo già di 2500, forse 2700 morti dall'inizio dell'anno. Se contiamo solo da sabato, appunto, si diceva più o meno oltre 600 potrebbero essere i morti. Sì. Però a questo punto c'è sempre il leitmotiv, nel senso, bisogna fare qualcosa di più. L'Italia da sola non se ne può occupare. Mare Nostrum, che sappiamo è l'operazione militare umanitaria dell'Italia, che prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e di soccorso in mare, agisce da diverso tempo, ma non può bastare, si continua a richiedere un aiuto da parte dell'Europa e degli altri paesi europei, perché si riconferma che non può essere un problema soltanto italiano. Voi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati che cosa proponete? È difficile dire questa è la soluzione, ma cosa si può fare di diverso? Adesso sentivo, mi pare, il Vice Ministro agli Esteri che parlava di un bisogna lavorare subito al Frontex Plus, una cosa europea che però mi pare che tardi ad arrivare. Allora, dal nostro punto di vista, nei fatti questo è un problema che non è solo di un paese dell'Unione Europea, ma lo è, interessa proprio nei fatti inevitabilmente tutti i paesi del continente europeo. Non sto neanche parlando solo dell'Unione, ma sto parlando del continente. Non solo per gli arrivi, ma anche per l'accoglienza e poi per il luogo in cui queste persone, molte di queste persone, andranno a richiedere asilo. Dal nostro punto di vista ci vuole una strategia che permetta di dare un piano ben comprensibile, perché le comunicazioni sono molto importanti nei confronti dei richiedenti asilo. Quindi un piano che innanzitutto continui a mantenere sicuramente l'impegno sul salvataggio in mare, quindi nessun passo indietro è pensabile di fronte ad una crisi di queste proporzioni, ma al salvataggio in mare va associato assolutamente un'azione di messa a disposizione di modalità sicure e legali per arrivare in Europa. Cosa intendo? Intendo un aumento dei programmi di reinsediamento, per prima cosa, quindi la possibilità per le persone più vulnerabili di accedere ai paesi dell'Unione Europea e ricostruirsi una vita in questi paesi, ammissioni umanitarie per i più vulnerabili su casi di salute particolarmente gravi, sponsorizzazioni per permettere ai più giovani di continuare i propri studi. Queste sono già cose che, in misura però ancora troppo piccola, si stanno facendo. Bisogna aumentare queste azioni per andare incontro a questa richiesta pressante. Secondo lei, per concludere, Carlotta Sami, è una mancanza di volontà, una mancanza di possibilità da parte dell'Europa, del continente intero, diceva lei, di affrontare in modo più efficace questo fenomeno? Nessuno dice che è facile fare tutto questo, sono misure complesse, non esiste una soluzione unica e non esiste una soluzione facile. Aprire quelli che talvolta con un gergo, come dire, più giornalistico, si definiscono corridoi umanitari, non è semplice, richiede una grande pianificazione e sicuramente una messa a disposizione di risorse, ma noi auspichiamo e ci aspettiamo e siamo fiduciosi che di più possa essere fatto, anche perché diciamo, è nell'interesse di tutti, non solo pensare di salvare le vite umane, ma anche pensare di utilizzare le risorse in un modo che sia costruttivo e che permetta di programmare di più tutto questo a alla fine sul medio e lungo periodo può portare solo che dei benefici. Ce l'auguriamo ogni volta. Io intanto la ringrazio e buon lavoro, Carlotta Sami. Grazie a voi, grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E le notizie adesso ve le riassumo in pochissimi secondi, in realtà. Per quanto riguarda l'economia italiana, avete sentito, l'OCSE boccia il nostro paese perché il prodotto interno lordo è in calo dello 0,4%, per cui ci sono le previsioni al ribasso, e per l'agenzia Standard & Poor's nel 2014 la crescita è pari a zero. C'è fumata nera per l'elezione dei giudici della Consulta in Parlamento, eletti invece i membri laici del CSM. Per l'Iraq c'è stata la conferenza internazionale a Parigi in cui si è parlato anche di un possibile via libera a un'offensiva militare contro l'ISIS. Per quanto riguarda l'immigrazione c'è la denuncia dell'agenzia dell'ONU per i rifugiati che parla di 600 morti nei naufragi di questi giorni negli ultimi tre giorni. E poi un caso di cronaca ad Ascoli: un costruttore ha ucciso due operai, le vittime sono due slavi armati di piccone, erano andati dall'imprenditore per chiedere il pagamento di mensilità non pagate. E per quanto riguarda invece il caso di Yara Gambirasio, Bossetti resta in carcere perché è stata respinta la richiesta di scarcerazione. Ora è il momento dell'Europa. Europa 24 notte. E in questo caso parliamo dell'affidabilità della politica, percezione della democrazia in Europa. Un'indagine effettuata dalla European Social Survey illustra in che modo i cittadini del vecchio continente, quindi noi europei, vedono la propria forma di governo democratico. In un'Europa sempre più estesa, in un'Europa in cui la democrazia rappresenta un pilastro delle forme di governo, emerge una percezione diversa della rappresentanza democratica. Un'indagine dello European Social Survey quantifica la differenza fra l'ideale e il reale, fra quello che i cittadini dei 29 paesi coinvolti nell'indagine hanno realmente e quello che idealmente vorrebbero. Bisogna dire che l'importanza della forma democratica è praticamente data per scontata. In un valore da 0 a 10, l'importanza di vivere in una democrazia vale almeno 8 punti, ma ci sono le dovute differenze. Leonardo Morlino è professore di scienza della politica all'Università LUISS di Roma ed è fra i curatori dell'indagine. Spiega che tipo di divario esiste fra i paesi del Nord Europa e del Sud. L'impatto della crisi si sente, la differenza tra i paesi del Nord Europa, i paesi a maggiore qualità democratica del Nord Europa e i paesi del Sud Europa si sente enormemente. Il divario si emerge, ma emerge soprattutto nei nostri paesi, invece che ai paesi, per esempio, del Nord Europa, dove emerge assai di meno. Una domanda molto forte che rimane insoddisfatta nel Sud di eguaglianza, di democrazia sociale, di diritti sociali, mentre al Nord questo non c'è, cioè questo aspetto si sente più realizzato. Quindi, mentre nei paesi a nord del vecchio continente è più forte la componente liberale ed è sostanzialmente promossa dai cittadini, al Sud Europa, secondo l'indagine, la democrazia desiderata è quella in cui si coniugano libertà ed uguaglianza. Spesso il giudizio dell'opinione pubblica è positivo in termini di libertà civili e stato di diritto, ma si lamenta l'assenza di azioni per la coesione sociale. In questa Europa la libertà, l'aspetto della libertà è stata quasi preacquisita, quindi certo l'attenzione alla libertà, alla democrazia liberale c'è ed è molto forte, però viene maggiormente considerata acquisita. L'indagine pone l'accento sulla democrazia come condizione essenziale per un progetto politico europeo e questa, secondo gli intervistati, è un'opportunità che la classe politica dovrebbe cogliere, soprattutto per coinvolgere la popolazione in maniera più diretta. Restringendo il campo all'Italia e alla percezione che gli italiani hanno della democrazia e del proprio sistema politico, il risultato è fortemente al ribasso. Il giudizio dei cittadini è talmente negativo che l'Italia, nonostante 70 anni di forma democratica, è collocata al terzultimo posto della classifica di 29 paesi, dopo il Kosovo e poco prima della Russia. Un giudizio notevolmente negativo, e tra l'altro è tradizionale la valutazione negativa della democrazia italiana, e quindi questo rispetto alle altre democrazie lo conferma. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Note sia al 349-238-6666 SMS su questa proposta di Renzi di allungare la settimana dei parlamentari da 3 giorni a 5 giorni. Abbiamo detto la gran parte d'accordo, altri dicono assolutamente inutile. Benedetto fa la sua considerazione: visto i danni che fanno è meglio che lavorino il meno possibile. Poi però c'è Angelo da Milano che scrive: perché non parlate della crisi ucraina? E io immediatamente lo accontento chiamando in causa Mattia Sorbi. Ciao Mattia. Sì, buonasera. Che... sì, sì, grazie. Ciao, Mattia. Di tirarmi in ballo. Grazie a te, giornalista freelance che da tempo gira per l'Ucraina con questa guerra, vera e propria guerra che dura ormai da 5 mesi. Tu dove sei? Nell'est naturalmente, nella zona più calda, sì, Donetsk, sì, Mattia. Sì, sì, nel Donbass, a Donetsk, e... mi tenete un po' di compagnia anche voi stasera, qui c'è il coprifuoco, quindi sono contento di sentirvi. Immaginiamo Mattia, ma sei spero al sicuro, perché lì da un momento all'altro può sembrare la situazione tranquilla e poi scoppia magari un ordigno. Com'è la situazione? Sì, sì, è proprio così, è una guerra irrazionale, appunto, come giustamente hai detto. Sembra che ci sia quiete e poi d'improvviso, come ieri notte, domenica notte, bombardamenti violenti sull'aeroporto, poi come avete sentito è stato centrato un mercato in pieno con molte vittime, e adesso appunto come sentite sono tranquillo perché dopo, ufficialmente dopo le 11 di sera qui non vola una mosca, però in realtà da molte ore, già di quando scende il sole, già c'è poca gente che nonostante tutto sta rientrando piano piano a Donetsk, una città che aveva 1 milione di persone, adesso ne ha soltanto diciamo 300.000, però di sera le strade, è come immaginare Milano davvero vuota. Come un po' meno tranquilla, diciamo, di Milano. Ma senti, Mattia, ti vedo ottimista. Ma gli Stati Uniti, poco fa ho letto questa comunicazione, hanno annunciato che non riconosceranno le votazioni regionali che si sono tenute in Crimea lo scorso 14 settembre. Sappiamo che la guerra era iniziata lì dalla Crimea, penisola a sud dell'Ucraina, che poi si era staccata. Però gli Stati Uniti dicono che non riconoscono queste votazioni che si sono tenute. Io leggevo una cosa piuttosto particolare adesso della situazione. Situazione lì a est dell'Ucraina, Mattia, cioè che ci sono addirittura dei volontari italiani che vanno a combattere o per una parte o per l'altra, per i filorussi separatisti oppure per gli ucraini, è vero questa cosa? Tu ne hai incontrato qualcuno? Sì, sì, sì, confermo, io personalmente non ne ho incontrati di europei occidentali e di europei in generale o dell'est o dell'ovest, però ci sono, i miei colleghi non solo me l'hanno confermato ma li hanno incontrati proprio questa sera, appunto potete immaginare siamo abbastanza uniti tra reporter stranieri, proprio un collega spagnolo ne ha incontrato altri 2 spagnoli, appunto come hai detto sia da una parte con questo battaglione Azov abbastanza di estrema destra che io ho incontrato personalmente, il battaglione Azov ai checkpoint, ma appunto non ho incontrato dei volontari italiani. So che altri volontari, sempre italiani, sono schierati con i ribelli filorussi e questo gruppo italiano Imperium. Sembra una nuova guerra di Spagna quasi, solo che lì si combatteva contro la dittatura, no? In questo caso... Sì, appunto, vorrei appunto ridimensionare la cosa, non per la gravità estrema di questo conflitto fratricida, perché è una guerra civile e la popolazione civile e i civili soffrono moltissimo, però appunto è vero il paragone con la guerra di Spagna, però vorrei levare l'idealità che forse c'era durante la guerra civile di Spagna, perché sì, ecco, sì. Mattia, io ti ringrazio. Mattia Sorbi, quanto resti ancora lì a Donetsk tu? Beh, francamente sto seguendo tutto il conflitto, per cui nonostante ci sia appunto una riduzione di larga scala, perché prima sembrava che il conflitto dilagasse fino a Mariupol e in tutto il sud dell'Ucraina, questo cessate il fuoco è vero che non è rispettato, però è altrettanto vero che adesso la cosa è molto limitata a Lugansk e a Donetsk, dove mi trovo, per cui insomma ancora un mese e poi vediamo se rimarrò di più o no. A seconda appunto di come si evolve questa guerra civile. Intanto mi raccomando, goditi questi pochi momenti di tranquillità, di serenità, senza essere troppo incauto, Mattia Sorbi. Poi ci risentiamo magari nei prossimi giorni, va bene? Grazie, gentilissima, e buona serata a tutti gli ascoltatori. Grazie, soprattutto a te. Ciao Mattia. Noi adesso ci fermiamo, poi vi ricordo come al solito io torno alle 22, vi rammento un po' quali sono stati i titoli principali della giornata e anche qual è il risultato della partita in corso. A tra poco.